My name is Miguel Duarte. I'm a Portuguese citizen. Last night I was on the deck of Family Madeira, one of the ships that composes. Mi chiamo Miguel Duarte, sono un cittadino portoghese. La scorsa notte ero sul ponte della nave Family, una delle navi che compone la Global Sumut Flottiglia. Ero sul ponte, nella parte posteriore della nave, quando ho sentito un drone. Sono uscito dal riparo del ponte e ho visto un drone librarsi a circa 3 o 4 metri sopra la mia testa. Ho chiamato i miei colleghi. Due di noi erano lì con il drone esattamente 3 o 4 metri sopra le nostre teste. Poi abbiamo visto il drone spostarsi verso la parte anteriore del ponte. È rimasto per qualche secondo sopra un mucchio di giubbotti di salvataggio e poi ha sganciato una bomba. La bomba è esplosa e c'è stata una grande fiammata. C'è stato immediatamente un incendio a bordo. Abbiamo preso gli estintori, siamo riusciti a domare l'incendio con successo e fortunatamente tutti sono stati al sicuro. È stato vergognoso. Palestina libera. Free Palestine. Free Palestine.